Silver Sirotti, medaglia d'oro al valor civile per il suo eroismo, perse la vita salvandone altre. La società italiana, conclude il Presidente della Repubblica, e le sue istituzioni respinsero quell'attacco grazie alla forza e alla coesione della comunità nazionale. Prosegue senza sosta l'escalation del terrore in Medio Oriente. Stamattina a Holon, a sud di Tel Aviv, un palestinese della Cisgiordania ha ucciso a coltellate un settantenne e una donna di 66 anni, agendo in tre diversi punti della città, prima di essere ucciso dalla polizia. Israele si prepara alla prevista rappresaglia da parte dell'Iran per l'omicidio a Teheran del capo di Hamas, Haniyeh, attribuita a Tel Aviv, seppur non ancora rivendicata. Libano del Sud, mentre a Gaza altri 15 civili sono morti in poche ore per altri raid israeliani. Con l'arresto in flagranza di 11 persone e il deferimento all'autorità giudiziaria di altre 18, si è conclusa a Cuneo una maxi operazione antidroga iniziata a settembre dello scorso anno, sequestrata crack e cocaina, in aggiunta ad altre sostanze da taglio destinate alle piazze di spaccio cittadine. All'Acqua Meno, sull'isola di Ischia, è arrestato un cinquantenne per maltrattamenti dopo che il figlio tredicenne aveva chiesto aiuto gridando dalla finestra. L'uomo, originario dello Sri Lanka, avrebbe malmenato la moglie minacciando di bruciare i permessi di soggiorno. Intervenuto a difesa dalla madre, il giovane sarebbe stato a sua volta aggredito dal genitore. Domenica ricca di finale alle Olimpiadi di Parigi, nel tennis femminile, il doppio Errani. Mentre si spera sempre oggi in serata. Alla finale è tutto, a